stati concepiti ed organizzati insieme all'ufficio cultura della provincia autonoma di Bolzano, la cultura italiana, che attualmente ha allestito una mostra Leonardo 500 presso la Libera Università di Bolzano al primo piano. È visitabile questa mostra, ci sono le newsletter e tutti i programmi collaterali inseriti in alcuni dépliant, e vi ricordo appunto che è visitabile. La biblioteca ha allestito anche una bibliografia all'uopo, qui trovate alcune stampe se avete piacere di portarla a casa, sono tutti i libri che abbiamo in dotazione in biblioteca. Allestiamo come di consueto sempre una vetrina. La novità di oggi è che questo evento è stato organizzato insieme anche alla casa editrice UTET, che ci ha fornito il libro, uno splendido libro questa volta dedicato a Leonardo, con delle riproduzioni eccellenti, lo trovate esposto lì all'ingresso, e vi invito anche a tornare in biblioteca chiaramente a vederlo, come anche ad approfondire alcuni temi che emergeranno questa sera dal dialogo e dalla conferenza che ci terrà il professor Giuliano Pisani, che è qui con noi questa sera e che è un esperto di storia dell'arte, ma nasce come filologo classico, ecco. E lo è tuttora, ecco. Quindi non ha rinnegato, no, vero? Ecco, benissimo. E vi vorrei leggere alcuni aspetti, perché saperlo a memoria mi deve scusare, ma il suo curriculum è talmente nutrito. Dal 2011 è membro del Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica del MIUR e coordinatore del relativo Comitato Tecnico, ma dal 91 per meriti culturali è membro della Société Européenne de Culture ed è anche socio della Fondazione Lorenzo Valla dal 1996. Dal 2013 ed effettivo dal 2017 è anche membro dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova. È una persona che si muove tantissimo nell'ambito culturale, ma anche nella promozione della cultura, di cui abbiamo bisogno, e quindi lo ringraziamo per essere qui con noi questa sera, per aiutarci a scoprire qualcosa di nuovo in più su Leonardo, ma anche per traghettarci nell'anno nuovo, nel 2020, che sarà l'anno dedicato a Raffaello. Ed è un impegno che insomma abbiamo preso come ripartizione, quella di ricordare e di celebrare questi eventi con delle iniziative per promuovere e diffondere appunto la conoscenza e la cultura italiana sul territorio, con delle occasioni sempre nuove. Ricordo che anche quella di Leonardo è una mostra ed è un evento che si protrarrà fino a dicembre. Ho qui davanti a me la dottoressa Lietti e la professoressa Paola Mazzini, che è della Dante Alighieri, che hanno appunto collaborato e hanno realizzato questo allestimento importante. Non mi dilungo oltre, vi ricordo altri due appuntamenti della Biblioteca Provinciale. Uno è la prossima settimana, 2 dicembre, e quello successivo sempre nella settimana prossima. Le cartoline sono a vostra disposizione. Per essere in contatto con noi, oltre a frequentarci e venire a visitarci, se vi iscrivete è gratuito, vi mandiamo l'email e vi teniamo sempre aggiornati sui nostri eventi settimanali, sulle novità del prossimo anno. Vi ringrazio e cedo la parola con grande piacere al professor Tomasi. Grazie. Allora, intanto grazie dell'invito, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io ho portato molto materiale da Padova e desideravo condividere con voi alcuni passaggi di ordine metodologico. Qualche anno fa, invitato dal Circolo Cittadino, parlai degli affreschi della Cappella degli Scudini di Giotto, che avevo, diciamo, interpretato in una chiave assolutamente inedita e nuova, che partiva dalla presa d'atto, è proprio una presa d'atto della concezione agostiniana che regola tutta l'impostazione del ciclo pittorico. E quindi riparto da qui per dire metodologicamente, se guardiamo questo quarto registro che è nella parte, diciamo, terminale, forse è il caso di spegnere qualche luce qui davanti, che così si vede un po' meglio, Ecco, questa è la successione dei vizi, e nel momento in cui noi siamo abituati a pensare ai sette vizi capitali, quelli che per esempio costruiscono Dante, il purgatorio e lo stesso inferno in gran parte, ma insomma le sette cornici sono i sette peccati capitali: gola, lussuria, ira, invidia, acidia, avarizia, superbia. Il fatto che Giotto invece metta di questi vizi solo due, l'ira e l'invidia, e gli altri siano invece completamente diversi rispetto a tutta la tradizione precedente e successiva, non poteva essere questo argomento affrontato con la superficialità di chi pensava che che Giotto, non essendo teologo, non poteva certo rispettare i dettami della teologia. Se poi consideriamo che il padrone di casa sarebbe stato un usuraio, quindi uno che prestava denaro, e quindi come facciamo a mettere il vizio dell'avarizia? Sarebbe stato una sorta di richiamo a questo. Ecco, tutte queste cose che dico chiaramente non hanno nessun senso al mondo. Non darò questa sera la chiave di lettura, ma guardate, anche le virtù non sono poste nell'ordine tradizionale di prudenza, giustizia, temperanza, fortezza, per quel che riguarda le cardinali, ma sono nell'ordine prudenza, fortezza, temperanza, giustizia, e le teologali addirittura, quelle che noi siamo abituati a dire fede, speranza, carità, sono fede, carità e speranza. Ecco, la filologia classica è fondamentale per risolvere questo genere di problemi, e devo dire Avi Warburg ha ragionissimo quando dice che uno storico dell'arte deve essere molto, molto nutrito di cultura classica, perché anche nel Medioevo la cultura classica opera. Noi possiamo pensare che nel Medioevo giustamente non sono conosciuti i greci, ma molti dei latini sono conosciuti. Molti, basta pensare a Cicerone, è conosciuto, basta pensare a Seneca. Quindi nel momento in cui ci occupiamo di Medioevo non possiamo pensare che ci sia una cesura netta con la cultura antica. C'è una prosecuzione sia diretta sia indiretta, ed è vero che c'è la tendenza da parte degli ambienti ecclesiastici di dare un'interpretazione in chiave cristiana della tradizione classica, o comunque in chiave allegorica e quant'altro, e dovremmo aspettare in effetti l'umanesimo perché questo venga a finire, e cioè i testi parlino con la voce che avevano quando furono scritti e non con sovrastrutture, riletture strane. Allora, questa è la Fornarina. Come mai vi parlo della Fornarina, sia pure brevissimamente, questa sera? Intanto per dire che non è la figlia di un fornaio, ma se uno ha la compiacenza di studiare la storia della parola forno, fornaio, fornaia, infornare, eccetera, si rende conto che sono tutte metafore di carattere sessuale e di carattere proprio legate all'atto sessuale. E quindi chi ha scritto nel 1772, casomai ci riserviamo per un dibattito poi questo tema, oppure lo riaffronteremo con la dovuta calma in altra occasione. Allora, chi ha scritto per la prima volta la parola fornarina è nel 1772 un incisore celebre di origine veronese, Domenico Cunego, che deve fare 9 incisioni di 9 capolavori dell'arte italiana su commissione di un personaggio formidabile che è lo scozzese Gavin Hamilton. Tutto questo per fare una cartella di 9 capolavori da mandare alla duchessa di Fane in Inghilterra. Dico questo perché nel momento in cui viene scritta la parola sotto l'incisione la Fornarina, il testo completo è Raffaelis Amasia vulgo la Fornarina, e per Cunego voleva dire un amante, opera di Raffaello, quella che normalmente noi, amante, visto che è giovane, visto che è, diciamo così, anche dissoluta nella sua posa, è quella che noi chiamiamo la Fornarina o una Fornarina, no? Questo studio ha comportato il rovesciamento di che cosa? Di una tradizione in cui davanti a questo quadro non ci si è posti il problema di che cosa rappresenta questo quadro, che cosa rappresenti questo quadro, ma ci si è posto semplicemente la domanda: chi è costei? E tuttora, passati da Cunego 200 e passa anni, tuttora siamo vessati da chi dice si chiamava Margherita Luti, metto insieme una testimonianza di un tipo o di un altro, è la giovane che rimase naturalmente talmente tramortita dalla morte del suo amato Raffaello, morto a 37 anni, dopo una settimana di febbri, che andò nell'agosto dello stesso anno, lui era morto il 6 aprile, nello stesso anno 1520, andò a farsi suora. Ecco, tutto questo, in chiave per esempio poliziesca, lo definiremo un colossale depistaggio, cioè ci porta completamente fuori dal porsi la domanda che cosa voleva rappresentare Raffaello quando ha ritratto questa tavola che noi chiamiamo ancora oggi e la chiameremo probabilmente per sempre la Fornarina. Allora, questa è la velata che è a Pitti, è una tela che ha la stessa dimensione della Fornarina che è su tavola, la Fornarina a Palazzo Barberini, la velata è a Pitti, si è discusso se siano o non siano la stessa modella, insomma mi pare francamente quasi oltre i limiti del credibile, perché anche questa dice che cosa rappresenta questo, per capire che cosa rappresenti dobbiamo cominciare a studiare esattamente i dettagli. Prima ho detto che Albi Warburg sosteneva che senza la cultura classica non si può lavorare in campo artistico, lo dimostreremo anche stasera per Leonardo, ma la seconda cosa importante che dice Albi Warburg è che Dio si nasconde nei dettagli. Se io voglio capire il segreto della creazione non devo guardare questi meravigliosi paesaggi che mi si aprono davanti agli occhi, ma devo andare a vedere il dettaglio, è lì che capisco la chiave per l'armonia del tutto. Allora qui i dettagli sono naturalmente molti, ma li lasciamo perché dobbiamo occuparci d'altro, era solo metodologicamente per dire: questa è la Madonna Sistina, la famosa Madonna che ha alla base i famosi angioletti che trovate, fra un attimo ve li faccio vedere, tutti i gadget. Vedete che è sempre la stessa persona? Allora la domanda è: che cosa rappresenta la Fornarina? Che cosa rappresenta la velata? Perché qui non ci poniamo la domanda, perché qui siamo d'accordo che rappresenta la Madonna. Eccoli gli angioletti che vi dicevo prima, no? I famosi angiolettini. La Madonna Sistina. E adesso facciamo un salto improvviso, siamo nel 1508 e questo quadro, che è del Sodoma e si trova al Louvre, è, come vedete in alto, Venere terrestre e Venere celeste. Che cosa vuol dire? Allora mi fermo per un attimo ed entriamo, ecco, ho fatto una breve divagazione, ma poi divagherò ancora, portate pazienza, perché anche divagare va bene se poi alla fine si trova un filo conduttore. Allora, dicevo 1508, quindi siamo in quello che è il trionfo pieno del Rinascimento italiano. Rinascimento italiano che potremmo dire ha una data di origine, a mio parere, perlomeno. Non so se è un parere esclusivo mio o se è condiviso da altri, qui non lo so, quindi, ma è il 1462 quando Cosimo I de' Medici fonda l'Accademia Neoplatonica, o l'Accademia Fiorentina, come viene chiamata. E cioè noi abbiamo tutta una serie di straordinari personaggi che vanno dai letterati tipo Poliziano, vanno dal filosofo fondamentale che è Marsilio Ficino, a artisti, e qui potremmo sbizzarrirci, di questa accademia fanno parte Botticelli, fa parte Perugino, guarda caso Perugino sarà il maestro di Raffaello, fanno parte quindi Pico della Mirandola, insomma il De Hominis Dignitate, quello che a scuola si studia quando ci si occupa della letteratura del Rinascimento, e ci si stupisce che ci siano pochi testi scritti in volgare e, diciamo, la gran parte scritti in latino. Poliziano scriveva anche epigrammi in greco antico. Dobbiamo capire che queste persone, e se guardiamo per esempio anche gli stampatori, Manuzio, per dire, per fare un nome a Venezia, pensate che nella cerchia di Manuzio parlavano tra di loro solo latino, con altri solo in greco, antico, non moderno, e se uno di loro tirava fuori una frase non in latino o non in greco, per una convenzione che avevano stipulato tra di loro all'inizio, era multato. Quindi l'idea era proprio quella di ricreare lo spirito e la sostanza, come dire, del pensiero classico. Allora, siamo nel 1508, che cosa rappresenta questo quadro? Questo quadro è chiamato la Venere terrestre e la Venere celeste. Allora, la Venere celeste è questa, ignuda. La Venere terrestre, invece, è questa. Che cos'è? Nel Trattato sull'amore, Marsilio Ficino distingue, sulla scorta del simposio platonico, distingue due tipi di veneri e due tipi di amore. Il primo è l'amore celeste, la Venere celeste, che è quella che ti innalza alla contemplazione delle verità più alte, quella che, diciamo, funge proprio quasi da intermediaria tra te e il cielo. La Venere terrestre, invece, è la Venere che presiede, è la madre, la sposa, che presiede alla procreazione, quindi è proprio la Venere madre. Non a caso, se osservate, in questa che è la Venere, dicevamo, terrestre, vedete che il piccolo Eros, è diventato un bambino, ecco là la sua faretra e il suo arco appesi su una. Perché vi parlo del Sodoma? Perché il Sodoma... ho detto che avevo portato molte immagini. Questa è un'altra delle immagini, forse di una delle opere più famose del nostro Rinascimento. Siamo nell'anno 1514, Tiziano. In questo quadro meraviglioso che è la Galleria Borghese, al piano superiore, e che viene chiamato, perché così l'ha chiamato un inglese nella seconda metà dell'Ottocento, e in modo totalmente insensato, l'amor sacro e l'amor profano. In modo completamente insensato. Come dovremmo chiamarlo noi? Dovremmo richiamarlo la Venere terrestre e la Venere celeste, secondo Tiziano. Ma c'è qualcosa di assolutamente diverso rispetto al quadro del Sodoma che abbiamo visto un istante fa, ed è il fatto che, come vedete, le due personalità femminili sono la stessa persona. Proviamo a fare una sfida tra di noi. Immaginate che questa sia la velata. Che cosa rappresenterebbe? Vedete la veste così ricca, con le tonalità del bianco, perché lei è la sposa. In mano tiene un ramoscello di mirto. Il mirto è una delle tre piante che si trovano alle spalle della fornarina. Mirto, melo cotogno e alloro. Allora, l'alloro non era di Apollo. Sì, l'alloro è di Apollo. Ma quando Lucrezio, per esempio, nel prologo del suo De Rerum Natura, nel famoso inno a Venere, chiede a Venere di conferire bellezza, grazia, fascino ai suoi versi, no? Da dictis diva leporem, da lepos leporis, quindi grazia ai miei versi, sta facendo questo ragionamento. Se Venere è la dea della bellezza, è colei che può elargire bellezza anche alla poesia. E questo non è che sia Lucrezio originale. Quindi è vero che l'alloro è di Apollo, ma l'alloro è dei poeti. Se guardiamo sulla destra di questa immagine, quindi avete capito il tema del mirto e del rosso della manica, se guardiamo sulla destra e confrontiamo questo volto con questo, ci rendiamo conto che c'è qualcosa che il quadro vuole comunicarci. Se guardate il sito della Galleria Borghese, trovate, ahimè, scritte delle cose che io ritengo, lo dico, intanto è registrata questa mia conversazione, ma l'ho già scritto alla direttrice, che evidentemente non è più affezionata a una visione, come dire. Pensate che qui siamo nel 1514, sono le nozze tra una giovane padovana di nome Laura Pagarotto e Nicolò Aurelio, segretario del potente Consiglio dei Dieci, 1514. Lo stemma di Nicolò Aurelio è qua, vedete, questo è il suo stemma, un leone, diciamo, rampante, ma con la coda, come dire, fatta oscillante. Che cosa significa, secondo voi, questa immagine di un giovane che sta sferzando, come vedete, la schiena di un altro giovane, che tiene bloccato a terra mentre una giovane donna sta nuda, sta guardando? Ci vogliamo porre questa domanda o vogliamo continuare a dirci che questa è una, come dire, non una fontana ma un sarcofago per tutta una storia falsificata in base alla quale il padre di Laura Pagarotto fu giustiziato il 1 dicembre del 1509 sulla pubblica piazza di San Marco come traditore della Serenissima. Era vero? No. Tant'è che la Serenissima 10 anni dopo lo, diciamo, riabilitò la memoria. Quindi questo non è un fatto vero. Cioè quale? Che il marito abbia proceduto a condannare il padre di colei che sposerà 5 anni dopo. Questo ha fatto venire in mente a qualcuno, qualche studioso illuminato, che questa non sia una fontana, una vasca. Ci ricordiamo che Tiziano è di Pieve di Cadore, quindi provate a pensare come sono le fontane, le vasche nel Cadorino, ma sia un sarcofago, cioè in un regalo di nozze io regalo un quadro dove c'è un sarcofago, perché questo ricorda il fatto che lo sposo è colui che ha fatto condannare a morte il futuro suocero. Cioè non verrebbe in mente una cosa del genere proprio a nessuno. Essendo poi Nicolò Aurelio il segretario del Consiglio dei Dieci ed essendo un non nobile, chiunque sappia il minimo della storia di Venezia sa che l'amministrazione della giustizia rimane ai nobili, non ai non nobili. Così come tutta l'amministrazione, diciamo, di tipo commerciale e quant'altro rimane ai non nobili e non ai nobili. Quindi il Consiglio dei Dieci era formato da 10 nobili. Che nel caso specifico hanno fatto anche una deliberazione con la giunta, cioè si sono ritrovati non in 10 ma in 32 e hanno proceduto alla condanna a morte del padre di Laura Pagarotto per maggioranza, nel senso che bastavano 2 voti che si spostassero e quindi la causa sarebbe finita con una soluzione. Abbiamo parlato prima di Botticelli, adesso proviamo a guardare il gesto di questa Venere che viene chiamata, in un quadro che viene chiamato La nascita di Venere, e c'è una grande discussione se, essendo Venere sulla, diciamo, conchiglia, sia appena nata o sia arrivata alla fine di quel viaggio che viene descritto, no? Anche, ricordate, da Foscolo, no? E più mai toccherò le sacre sponde, il corpo fanciullo che te specchi nell'onde di Venere con le sue fea feconde, eccetera, eccetera. Allora, l'immagine qual è? Venere nasce a Citera, perché nessun testo dell'antichità la fa nascere in altro luogo che non sia Citera, percorre tutto il mare Egeo dando fertilità, fecondità, bellezza e vita, e arriva finalmente a Cipro, a Pafo, dove termina questo viaggio. Quindi se noi dovessimo guardarlo da questo punto di vista potremmo dire è Venere che arriva a Pafo, ma non ci interessa minimamente. Immaginiamo che sappiamo che questo quadro era assieme all'altro che è la celeberrima primavera, di cui però si dice che non si capisce il senso. Che cosa rappresenta esattamente questo quadro? Non è chiaro. Se lo controllate nei saggi relativi non è chiaro. Invece io trovo che sia molto chiaro se ragioniamo sul fatto che erano nella stessa stanza, uno su una parete sinistra e uno sulla parete a destra, così nasce. E provate a guardare l'atteggiamento, fissatelo per un momento, braccio destro che va con mano aperta sul seno sinistro e mano sinistra che accompagna in questo caso i capelli, ma comunque a, diciamo così, nascondere il pube. Proviamo a tornare indietro e guardiamola. E vedete che è lo stesso gesto. Allora, la conclusione mi pare abbastanza evidente. Questa è la Venere terrestre. La nascita di Venere è l'esaltazione della Venere celeste. È chiaro come mio pensiero, perlomeno? Se non sono chiaro, poi chiedetemi. Adesso vi porto in un'altra dimensione. Qui siamo con Raffaello, nel ciclo di Amore Psiche, che è nel loggiato di Villa Farnesina. È il momento in cui Venere dà ordine a suo figlio di andare a punire quella ragazza, Psiche appunto, che accetta di essere adorata come una divinità e che riceve ciò che immeritatamente sottrae a Venere stessa. Quindi vai, puniscila con una delle tue frecce di bronzo in modo che lei si innamori del peggiore degli uomini. È chiaro come invito. Qui siamo con Canova, osserviamo la prima statua dedicata a Psiche da Canova, che, scusate perché devo farvi vedere, ecco, la ritrae con in mano una farfalla, per un motivo evidentemente molto semplice, perché la farfalla è il simbolo della metamorfosi, in quanto, come sapete, da bruco, crisalide, farfalla, quindi cambia natura. Che cos'è che ci fa cambiare natura? La bellezza. E infatti che cosa avviene? Che Amore va per colpire con la sua freccia di piombo giovane Psiche, ma come la vede si innamora. E nel momento in cui la bellezza di Psiche lo fa innamorare, lui non è più quell'eros, diciamo, malandrino, scapestrato, capriccioso, eccetera, eccetera, ma diventa un soggetto innamorato, con tutta la grazia, con tutta la disponibilità, eccetera. D'altra parte, chi è filologo classico sa che la parola psiche vuol dire sì, anima, come direbbero tutti, Freud compreso, no? Ma vuol dire anche farfalla. La domanda, come si dice in greco antico farfalla? La risposta è psiche. Ci siamo? Bene, allora, vedete che se io guardo questo quadro di Gérard che è al Louvre, eccola là la farfalla, vedete? Dante stesso ci parla di noi come farfalle, no? Come esseri destinati a formare l'angelica farfalla, quindi ad essere trasformati, siamo nel purgatorio in questo caso, da persone che ancora godono di una condizione di non, diciamo così, salvezza, a diventare come farfalle che raggiungeranno, nati a formare l'angelica farfalla, questo è il verso di Dante. Quindi nessuno stupore, anche per il discorso che dicevamo prima. Ed eccoci qui velocemente e poi entriamo nell'argomento, però l'abbiamo già introdotto, vedrete, in alcuni punti fondamentali. Questa è la celeberrima Amore e Psiche, attenti, su tutti i testi trovate scritto giacenti. Sbagliato, perché Canova dice Amore e Psiche giacente. È lei che giace. E in questo caso giacente non vuol dire sdraiata, ma vuol dire morta. È chiaro? Pensate quanto nel banale noi diciamo di una persona che è scomparsa, qui giace. Non è che giace perché è sdraiato, giace perché è morto. Allora, Canova chiama questo gruppo amore e psiche giacente. Guardate questo che ha creato il famoso bacio di amore e psiche. Questa è la scheda del Louvre. Questa statua, questo gruppo scultoreo si trova al Louvre con, diciamo, le nudità evidenti e a San Pietroburgo all'Ermitage con le nudità maschili coperte, no? Da una conchiglia. No, non vi devo dire, Cupido e Psiche standing and Psiche, questa è l'altra, revived by Cupid kiss. Incredibile, il sito del Louvre, nonostante gli abbia scritto già da 3 anni, continua ad avere questa incredibile fola. Cioè, qual è la fola? Confondono amore e psiche di Canova e quindi di Apuleio, che vedremo fra un attimo, ecco perché la cultura classica, se no, non capiamo, la confondono con la fiaba di Perrault, La bella addormentata nel bosco, dove chiaramente c'è il principe azzurro che con il bacio desta la nostra meravigliosa. Ma non è così. Ecco qua Apuleio le metamorfosi. Che cosa avviene? Viene descritto che, non vi racconto tutta la storia precedente perché sennò saremo troppo lontano. Allora, siamo nell'ultima prova che diciamo impone la suocera cattiva, non ancora suocera, la futura suocera cattiva Venere alla povera Psiche, ed è quella di scendere nel regno dei morti, di chiudere dentro un'urna un poco della bellezza di Proserpina e di ritornare sulla terra e consegnarglielo a lei Venere. Che cosa avviene? Che la povera psiche riesce in qualche modo, siamo all'interno di una meravigliosa fiaba, quindi a farsi dare un poco della bellezza di Proserpina e chiuderlo dentro quest'urna, e quando finalmente ritorna alla luce pensa: oddio, perché non usare un po' di questa bellezza di Proserpina per farmi perdonare da Cupido? Di cosa doveva farsi perdonare? Del fatto che l'aveva voluto vedere, no? Ed era pronta a ucciderlo come mostro. Le sorelle le avevano detto: guarda che hai sposato un mostro, per quello lui non vuole che tu lo veda mai, quindi non doveva vederlo in nessun modo, perché altrimenti l'incantesimo sarebbe finito. E vedete che infatti dice: no, io che porto questa divina bellezza, perché non ne prendo un tantillum? E così il mio amatore, no, al mio amatore bellissimo riuscirò a piacere. Quindi apre questa maledetta urna e subito esce il vapore letale della morte e lei giace morta. Talmente morta che Apuleio usa il termine cadaver. Amore accorre, che cosa fa? Dice Apuleio, deterge il velo, scusate, il corpo della morte, il vapore letale della morte, lo rinserra dentro l'urna, estrae una delle sue frecce d'oro questa volta, la punge e la richiama alla vita. Allora, la richiama alla vita pungendola, non con un bacio. Il Louvre mi risponde che non è rispettata da Canova la favola di Apuleio, perché è lui che ha rappresentato il bacio. Allora torniamo a vedere. Questa foto l'ho fatta io, non l'ho presa da internet, è al Louvre e guardate che cosa c'è dietro l'immagine, l'urna, un'anfora chiusa e, lo vedete, una freccia. Quindi vuol dire che lui è già arrivato, ha deterso il vapore della morte, l'ha chiuso dentro l'urna, ha estratto la freccia, la punta, l'ha richiamata alla vita, e allora questa scena qua che dicevamo prima, scusate, che scena è? È la scena di lei che si è svegliata e vedendo il viso di amore vicino a lei, che cosa fa? Quello che farebbe qualunque donna, stende le braccia, gliele mette sulla nuca e cerca di trattenerlo. Lui ha le ali aperte, non perché stia arrivando, ma perché sta andando via. Che cosa le ha detto infatti Nina Puleo? Non posso rimanere con te, devo andare da Giove. E quindi, nel momento in cui lui sta prendendo lo slancio per riandare, lei, come vedete, lo abbraccia, gli riserra le mani sulla nuca, e quindi un colossale fraintendimento anche qui, che ha un suo significato, ovviamente. Questo è Bertel Thorvaldsen, e vedete che siamo negli stessi anni, vedete che questa descrizione è esattamente Cupido che sta buttando il sonno letale della morte nell'urna e sta estraendo la freccia per richiamare in vita lei, che in questo momento non è seduta, ma semplicemente è morta. A questo punto ritorniamo brevemente a Giotto. Perché? Perché dobbiamo fare un punto sulla situazione, e cioè questa è l'annunciazione famosa di Giotto, quella che trovate nella Cappella degli Scovegni. Che cosa mi serve questa immagine? Perché ve la devo richiamare? Perché se guardiamo la figura di Maria, vediamo che Giotto la presenta con un libro chiuso, simbolo naturalmente dell'elevatezza della persona, con uno sguardo che va in diagonale, che si abbassa e che non sta guardando, ma sta guardando con l'occhio della mente, del pensiero, perché sta meditando su quel messaggio che l'Arcangelo Gabriele le ha appena letto, tant'è che se lo riguardate ha il cartiglio con la mano aperta. Il colore dell'arcangelo rosa è perché il rosa è il colore della gioia. Nella Cappella degli Scovegni Giotto non dà al caso nulla, nulla di nulla, quindi anche i colori rispondono esattamente a un valore simbolico molto forte, perché si parte da quest'idea che è fondamentale nel discorso che stiamo facendo, e cioè che se io devo ritrarre la realtà non posso che fare ciò che il creatore ha realizzato. Quindi se c'è una bellezza corrisponde al sacro, il sacro è bellezza e la bellezza è sacro. Quindi se esistono i colori io devo capire qual è il significato dei colori, perché Dio ha creato i colori giallo, blu, rosso, devo capire questo. E perché ha creato dalla fusione, che ne so, del blu col giallo il verde? Tutto ha un valore simbolico, perché tutto ha un significato. Il pittore è interprete della comprensione di questo significato, cioè ha il compito di rendere visibile l'invisibile. Mi sono spiegato a sufficienza. Quindi deve fare questo come atto di omaggio alla potenza del creatore e alla bellezza del creato. Se vado a vedere invece quest'opera giovanile di Leonardo, mi ritrovo che questo concetto non c'è più. C'è un altro concetto. Quest'opera è di Leonardo ventenne, naturalmente si discute amplissimamente che cosa ci sia effettivamente di Leonardo. Allora qualcuno dice ha fatto l'arcangelo, qualcun altro dice ha fatto il volto di Maria. Comunque la vediate, guardate, quello che ci importa vedere è che Maria stava leggendo, ha un volto illuminato in cui c'è una sovrana bellezza di una donna stupenda, come d'altra parte faceva anche Giotto, la Madonna come donna stupenda. Perché come donna stupenda? Perché l'idea e il concetto è che quando il divino si umanizza, cioè veste il ruolo di essere, come pensate a Gesù, no? Di essere nel mondo, è un uomo come tutti gli altri e quindi ha le passioni, i sentimenti, il dolore, la gioia, la fermezza, che caratterizza l'esistenza di ciascuno di noi. E certamente non è nemmeno lei, grande, molto di più, pensate alle varie Madonne della Misericordia, no? Dove lei è gigantesca e gli uomini sono piccolini, ma il divino è umanizzato. Quello che importa non è tanto quello. Guardiamo questo paesaggio. Oggi venendo in macchina da Padova si vedevano le montagne innevate e diciamo c'era quella sorta di mezza nebbiolina in lontananza, per cui pareva proprio uno sfumato leonardesco. Al di là di questo, che cos'è che mi fa impressione in questo quadro? A me, perlomeno. Vedete che l'arcangelo proietta un'ombra. Lo vedete? Ma l'arcangelo dovrebbe essere un essere spirituale, quindi non dovrebbe fare ombra. E quando è che appare l'ombra nella storia dell'arte? Per Bingiotto c'è ombra? Mai. E il primo che mette ombra è Masaccio. Vedete che qui addirittura, ma questo è Pietro, guarisce gli infermi con l'ombra. E qui ecco di nuovo ombre in questo incontro della Cappella Brancaccia, il pagamento del tributo, vedete che la scena è questa, e le ombre sono proiettate. Cacciata di Adamo ed Eva con le ombre. Ma posso essere smentito domani mattina? Io credo sia la prima volta che vediamo un arcangelo che proietta un'ombra. E in questo senso ci deve essere dietro un ragionamento del tipo: se Maria lo vede, lui è corporeo. Se è corporeo, io ci metto l'ombra. Per quello che riguarda invece le vesti, la sontuosità, la bellezza di quell'immagine dell'Annunciazione, credo di poter dire la mia opinione su questo con fermezza, e cioè che non siamo più nella sfera del sacro. La sfera del sacro di fatto finisce con il Medioevo. Quando noi entriamo nell'età umanistica, entriamo in un'altra dimensione, dove per esempio non cerco la bellezza come riflesso del sacro e della creazione, ma cerco la bellezza come riferimento di bellezza ideale, assoluta, di Venere celeste, quella bellezza che mi innalza fuori dal contingente, che mi eleva, che mi slancia al di sopra e al di fuori. Quest'altro quadro celeberrimo, il battesimo di Cristo, dove si dice che Leonardo abbia fatto solo questo angioletto, può essere, naturalmente, ma c'è una leggenda che dice che Verrocchio, quando vide questo angioletto fatto dal suo giovane di bottega, depose il pennello e si diede ad altra attività, cioè cessò di fare il pittore, perché di fronte a questo talento che aveva davanti agli occhi non era il caso di fare altro. Come vedete anche qui, questa Madonna famosa dell'Alte Pinoteca di Monaco, di Baviera, anche qui diciamo, ci sono aspetti di molto interesse se avessimo il tempo di approfondirli. Vedete comunque che il paesaggio richiama, con queste montagne alte di sfondo. Perché vi ho portato l'uomo vitruviano? Non per diciamo rinfocolare le polemiche se era giusto o non giusto darlo al Louvre, se non fosse meglio tenerlo. Io vado a Venezia in continuazione perché ho la fortuna di abitare a Padova, quindi sono 30 chilometri, e anche se dice ho un pomeriggio che non so cosa fare, vai a Venezia perché ti rifai l'occhio e vedi mille cose bellissime dovunque, sempre. Non sono mai riuscito a vedere questo disegno perché giustamente viene tenuto tutelato. È su una carta che è sensibile comunque alla luce, e quindi speriamo bene. Io non sarei stato di quelli che così avrebbe dato con... Ma torniamo a noi. Perché questa idea? Che cosa è? De hominis dignitate, di Pico della Mirandola, l'uomo è al centro, è la misura, l'uomo è misura di tutte le cose, dicevano, no, i filosofi antichi, di quelle che esistono in quanto esistono e di quelle che non esistono in quanto non esistono. L'uomo è misura. Questo è il concetto, l'uomo come unità di corpo e anima, copula mundi, è il concetto fondamentale dell'umanesimo, cioè la rivalutazione della figura dell'uomo, della dignità dell'uomo nel creato e nella natura, e quindi la ricerca delle proporzioni, dell'armonia perfetta. Questo fa parte di questo ambito culturale. Ed eccoci finalmente, torniamo al 1508. 1508 è l'anno in cui Raffaello realizza la scuola di Atene. Ora, l'avevamo visto prima come, diciamo, Sodoma e la Venere celeste e la Venere terrestre. Il Sodoma dov'è? Eccolo qua. Guardate. Questo è il Sodoma. E guardate chi c'è dietro? Raffaello. Vedete? Allora, la scuola di Atene ha come suo riferimento Platone. E a Platone viene data l'immagine di Leonardo. Lo capiamo dall'autoritratto di Torino. Quanti anni ci sono di differenza tra Leonardo e Raffaello? 31. Leonardo nasce nel 1452, il nostro amato Raffaello nasce nel 1483. Qual è l'atteggiamento che ha Raffaello nei riguardi di Leonardo? Devozione pura. Devozione pura. Tant'è che quando ha la possibilità di essere nel periodo fiorentino assieme a Leonardo combaciando, non abbiamo notizie, ma immaginiamo l'influenza che Leonardo abbia avuto ovviamente sulla pittura di Raffaello. E se tu lo vedi nello scarto del Perugino, calcolando sempre che il Perugino, ricordatelo, faceva parte dell'Accademia Neoplatonica, l'abbiamo detto prima, no? Come ci faceva parte Botticelli. Ma lo ritrova a Roma anche negli anni 14-15, poi sapete che nel 16 va in Francia e tra poco arriverò alla conclusione del... È importantissimo questo aspetto, molto più di quanto non si pensi, perché è, diciamo, la consacrazione che il filosofo del Rinascimento, cioè Platone, ci potremmo mettere anche Plotino, visto che Marsilio Ficino è il primo che traduce in latino tutto Platone e tutto Plotino, l'Enneadi famosi di Plotino, il filosofo di riferimento è Platone, e mettere Platone con le sembianze di Leonardo è un riconoscimento, come capite, formidabile. E il mettersi nell'angolino lui lì è proprio dire: io vorrei essere, io amo il pensiero di essere insieme con questa scuola. Perché dico questo? Perché noi abbiamo un'idea strana. Leonardo dice di sé: io sono uomo senza lettere, cioè non ho studiato, non ho frequentato scuole. Lui era figlio naturale di un padre che era comunque benestante, agiato, eccetera. Lui ha dimostrato fin da subito un talento inarrivabile, un genio qual era, ma non ha studiato, quindi un po' vezzosamente lo dice: sono uomo senza lettere, un po' vezzosamente, che era, è chiaro. E però Raffaello non è un ragazzo senza lettere, è stato molto sfortunato nella sua vita, al contrario di quello che da Vasari in poi noi abbiamo come suo emblema, cioè la persona felice, serena, come si vede nei suoi quadri. Io ho tutt'altra opinione, e faccio due esempi che così mi capite. Il primo è la vita personale: lui perde la mamma quando ha 8 anni. Il padre si risposa e quando lui ha 11 anni muore anche Giovanni Santi, suo padre. Quindi lui resta orfano a 11 anni. E, diciamo, dopo un breve periodo passato accanto a uno zio, va nella bottega del Perugino. Quindi da lì inizia questa carriera folgorante che lo vede sempre più oberato di impegni, ma ha un talento che non è quello di fare, come dire, le Madonne bellissime, la Madonna del Cardellino, per fare un esempio che tutti conoscono, o la Madonna della Seggiola, no? Ma è un uomo colto. Voi pensate che Leone X, Papa Giovanni de' Medici, gli avrebbe affidato la cura di tutta la sistemazione urbanistica, della valorizzazione dell'antica Roma? affidato a lui, se non fosse stato un talento che aveva capacità di architetto, quindi dobbiamo capire che è un'altra la personalità di Raffaello. E forse occupandoci bene, ecco qui il suo volto, occupandoci bene di questo dipinto, questo è un altro, questo è Oxford giovanile, e questo è il celeberrimo degli Uffizi. Adesso vediamo che cosa ci no, vabbè, ecco, adesso entriamo nel San Michele. Perché è importante questo discorso di San Michele? Perché ho citato il Papa Giovanni de' Medici, secondogenito del Magnifico, che è Papa con il nome di Leone X, ed è, diciamo così, portato a recuperare tutta la grandezza di Roma, della Roma imperiale, della Roma storica, in chiave naturalmente di essere come Papa il diretto prosecutore della grandezza anche dell'impero, quindi di Costantino, per fare un modello, un esempio, protettore di artisti, avvia molte iniziative, ma ha una grande minaccia, ed è Carlo V, quella minaccia che si concreterà purtroppo nel 27, quando il Papa sarà Clemente VII e non più ovviamente Giovanni de' Medici, che è morto nel frattempo, ma ci sarà il sacco di Roma, 1527. Questo brutale sacco di Roma, che non è, detto così sembra un sacco, dice, boh, hanno razziato, hanno messo dentro, invece hanno distrutto, stuprato, ucciso, violentato, ne hanno fatti di tutti i colori, i famosi lanzichenecchi, li recuperate dalla storia. E quindi chi era il potenziale difensore del papato? Il re di Francia. Il re di Francia è Francesco I di Valois, figlio di Luisa di Savoia, quindi una savoiarda diciamo portata per grande ammirazione a, diciamo così, frequentare gli artisti del Rinascimento italiano, ed è lei che porta Leonardo in Francia nel 16. È Luisa, non Francesco, che ne è il figlio e che era ovviamente ben felice di poter avere, perché dalla mamma aveva ereditato questa grande passione per l'arte. Quindi San Michele è colui che, come arcangelo, qui non faccio domande al pubblico, neanche al mio amico Piero, che come arcangelo aveva diciamo sostenuto, con la famosa frase qui sunt Deus, chi come Dio, aveva sostenuto la sua fedeltà al Signore contro l'attacco di Satana, Lucifero, chiamiamolo come volete, una delle 10 gerarchie angeliche che diventerà appunto quella dei diavoli e che sarà nell'inferno, lasciando le altre 9. Quindi l'arcangelo Michele è il difensore di Dio, e il Papa vuole che l'arcangelo Michele diventi il difensore del papato, che Francesco I diventi il difensore del papato. Esisteva già da alcuni decenni, fatto da Carlo II, l'ordine di San Michele. Quindi il Papa non fa altro che rinfocolare questa tradizione, mandando al re di Francia un dipinto, che vedremo fra poco, di San Michele Arcangelo. Questo è il piccolo San Michele, che è sempre al Louvre, che è del 1504, quindi periodo fiorentino, 20 anni, 21 di Raffaello, e vedete, è una tavola molto piccola, però vedete bene com'è concepita. C'è un movimento quasi leggero in un mondo popolato di mostri di ogni tipo, di ogni genere, come vedete, guardate, che sarebbero appunto questi demoni, eccetera, ed ecco qui invece il grande San Michele del Louvre, dove basterebbe guardare questo per capire, uno, l'influsso di Michelangelo. Apriamo una parentesi, quanti anni aveva Michelangelo più di Raffaello? 8, quindi i due sono in grande competizione. ma è una competizione che va da Michelangelo verso Raffaello, non da Raffaello verso Michelangelo, perché da questo punto di vista Raffaello è, come è giusto definirlo, la persona più misurata e più equilibrata che sia mai esistita nel campo della competizione artistica, perché rendeva omaggio ai talenti di quelli che dovevano essere il suo rivale. Michelangelo era un ovvio rivale, ma se pensate, Michelangelo è dionisiaco, mentre Raffaello invece è apollineo. E se osservate questa immagine e guardate lo sfondo, vedete che lo sfondo è leonardesco. E diciamo, la potenza che esprime l'arcangelo è una potenza michelangiolesca. Adesso questo è quello che ha, diciamo, generato il mio romanzo, che è di là, Raffael. Perché? Perché, come vedete fra poco, ecco, questa tela, che è sempre il San Michele del Louvre, è apparsa in India, a Goa, pochi anni fa. E sulla traccia, diciamo, vedete che si legge Ra Fa El Ur, è una V che è una U, Ur Binas. È la firma di Raffaello, quella che metteva anche sull'armilla al braccio della fornarina, Raffaele Urbinas, dove c'è sempre lo storico dell'arte più intelligente degli altri che dice, l'ha scritto lì mettendogli questa cosa, come per dire, questa donna è mia. Cioè, se tu guardi, vedi Raffaele Urbinas, non so, ed è scritto sopra il tempio dello sposalizio della Vergine, è come se dicesse, questo tempio è mio, no? C'è da essere incredibile, ditemi se mi sbaglio. Ecco, e qui siamo in un tema da ultima cena. Guardate questa chicca che è della chiesa di San Zeno a Verona. Che cosa si mette in scena qui, su questa tavola? Come vedete ci sono gli scorpioni. Gli scorpioni sono simbolo del demonio. Quindi l'ultima cena è la cena del tradimento. Quindi siamo in preda agli scorpioni. L'ultima cena di Giotto, nella cappella di Scoveni. Non c'è il vino. Guardate, l'unico bicchiere che esiste è questo. Quindi il Vangelo di riferimento è il Vangelo di Giovanni, perché nel Vangelo di Giovanni non c'è la coincidenza tra l'ultima cena e l'istituzione dell'Eucaristia, ma l'ultima cena è solo il tradimento. E così siamo arrivati a questo meraviglioso cenacolo. Io avevo portato qui con l'idea di leggere due righe un saggio di Goethe, che vi consiglio, se lo trovate, di leggere, è del 1817. Goethe vede, non in quell'anno ovviamente, ma anni prima, vede il cenacolo e ne resta così folgorato che dopo 20 anni, anzi più di 20 anni, scrive questo meraviglioso saggio, perché ha bisogno di trasmettere su carta le emozioni che gli ha dato la visione del cenacolo. E per far questo addirittura si ritira in campagna, non vuole essere disturbato, si isola proprio completamente da qualunque legame con la quotidianità. Questo è Gian Pietrino. È stato fatto da Gian Pietrino, uno degli allievi di Leonardo, più o meno nel 1520, possiamo pensare a Leonardo appena scomparso. È uno degli oltre 30, come dire, elementi di ripresa in tavole, in sintesi, in tela, di questo componimento formidabile, meraviglioso. Ecco Luisa di Savoia, madre di Francesco I. Francesco I, quando invita nel 16, quando invita Leonardo, dicevamo su indicazione della madre, è un giovane che ha circa una trentina d'anni. E adesso vi faccio vedere questo clamoroso arazzo, che è stato realizzato da una mano, diciamo, formidabile, probabilmente francese, probabilmente olandese delle Fiandre, ed è interessante per un motivo che ci collega all'ultimo discorso di San Michele. Tenete presente il Fleur de Lis e questo collare che vedremo fra poco meglio con il San Michele. Eccolo qua, dovrebbe essere nell'immagine successiva. Eccolo qua. Vedete? Questo è il simbolo dell'ordine di San Michele. Riuscite a vedere il San Michele? Con il doppio cordone introdotto da Francesco di Valois e guardate che cosa si vede lungo, torno indietro solo per farvi vedere. Eccolo qua. Vedete? Stiamo per vedere questa cosa. Ce ne sono sei di queste e sono salamandre. La salamandra è un anfibio che veniva ritenuto magico perché capace di nutrirsi di fiamme e di spegnere le fiamme. Vedete infatti che è avvolto dalle fiamme, ma non ha nessun timore di questo. E Francesco di Valois lo ha preso come suo simbolo, tant'è che ha creato anche il motto nutrisco et extinguo, che è proprio legato all'immagine della salamandra. Se prendiamo questo ritratto di giovane gentiluomo nel suo studio di Lorenzo Lotto, la cosa che si deve, che non so perché viene passato come ritratto di giovane malato, se lo trovate così portate pazienza, questo si trova all'Accademia di Venezia. E come vedete, guardate cosa c'è qua, una salamandra, giusto? Che è quindi il simbolo della salute, il simbolo della, come dire, della forza primigenia che vince, e questo è il motto della madre di Francesco di Valois. Adesso però non avrebbe secondo me avuto senso che io venissi a parlarvi di tutto questo se non potessi concludere con questa cosa che mi sta appassionando da qualche tempo e che spero che adesso si apra. Eccolo qua. Vi leggo questo testo, lo leggo con voi. Io spero di far piacere al grato lettore se dirò qual fortuna partorisce a mio padre l'acquisto di questa pittura. Erano soliti due re, Francesco I di Francia ed Enrico d'Inghilterra, di contrassegnarsi la scambievole amicizia che passava tra loro con continui e preziosi doni. Quindi si tratta di Enrico VIII, quello famoso della scisma d'Inghilterra, e di Francesco I di Valois. Di qui è che, avendo il secondo, cioè Enrico d'Inghilterra, donato alla Francia alcune pitture del famoso Olbenio, Franz Holbein il Vecchio, che è quello che ritrae nel celeberrimo ritratto di Enrico VIII, il medesimo, fu gli resa la pariglia con quest'opera di, attenti, Leonardo da Vinci. Colpo di scena. Quindi il re Francesco I di Valois, per avere degli Holbein, dà al re d'Inghilterra un'opera, un quadro di Leonardo, la quale, essendo estremamente piaciuta alla regina Maria detta la Cattolica, Maria la Cattolica è la figlia terribile di Enrico VIII, fu riposta e conservata tra i tesori della reggia. Quindi quest'opera di Leonardo è tra i tesori della reggia inglese, su dono, o meglio, su scambio di Francesco di Valois. Finché, occupata l'Inghilterra da Cromwello, il famoso Cromwell e i suoi puritani malefici, e ucciso con enorme e non più dita impietà il re Carlo, Carlo I d'Inghilterra, spogliate d'ordine del tiranno, cioè di Cromwell, le regie guardarobe, fu esposto, soggetto il quadro di Leonardo, fu esposto in pubblica vendita all'incanto tutto ciò che più di prezioso aveva saputo raccogliere tanti re. Così venduta, tra le altre cose, anche questa pittura, ecco, scusate, era qui che lo diceva, fu trasportata a Parigi, quindi torna in Francia, o con speranza che dovesse il venditore averne un gran prezzo, quindi riscuoterne insomma un bel po' di denaro, o per altri rispetti, dove, dopo essere passata per varie mani, finalmente mio padre la comperò dagli eredi del famoso Perugeot. Perugeot era un mercante d'arte, senza nessun riguardo di spesa, cioè il padre l'ha comprata corrispondendo il denaro che le era stato chiesto, per non perdere il buon incontro di così bell'acquisto. Il cielo faccia la nostra famiglia per lungo tempo posseditrice di mobile tanto prezioso, a ciò che abbiamo continuamente davanti agli occhi una sì bella memoria del re Francesco I, di Leonardo da Vinci e del bel genio di mio padre. Ecco, questo testo che ho miracolosamente recuperato e sul quale ho lavorato, credetemi, intensamente, mi ha portato, e ve lo do come un annuncio che non può essere però confortato da dettagli, a scoprire questo quadro. Quindi, fra qualche tempo verrà data la notizia formale e ufficiale di questo Leonardo da Vinci, che era, diciamo, nelle proprietà del padre di questa, è una fanciulla che scrive questa lettera, e che finalmente siamo in grado di poter, attraverso l'identificazione, restituire alla conoscenza del mondo. Grazie. Grazie professor Pisani, approfittiamo della sua presenza e disponibilità per eventualmente rivolgere qualche domanda, se qualcuno ha qualche curiosità, qualche dubbio. Professore, ci dice qualcosa di più dell'uomo vitruviano? Sì. Perché c'è chi si occupa di esoterismo e così, che dice che è l'immagine perfetta della sensazione che qualsiasi essere vivente può avere nel raggio di 3 metri. Tutto quello che era chiuso, no? Viene percepito, sì, a livello inconscio. Tutto quello che è fuori non più. Questa è una branca così che circola. Io non ho mai capito perché questo uomo si trova in mezzo a un cerchio e a un quadrato. Ok. Grazie, perché il cerchio indica il cielo, cioè il divino, e il quadrato indica l'umano. Questo è sempre stato, in tutta la tradizione classica antica, c'è sempre questa idea del rapporto tra il cerchio, che rappresenta il kyklos, quindi che rappresenta, come dire, la circolarità e quindi il divino, e il quadrato, che rende l'idea dell'umanità. Ma la cosa importante, lei lo può trovare anche in Wikipedia, la cosa importante è che questo disegno è preceduto e seguito dalla scrittura di Leonardo. Quindi Leonardo corregge l'uomo vitruviano dicendo che Vitruvio ha sbagliato le misure, e la misura perfetta, della perfetta armonia del divino e dell'umano, ecco la copula mundi che dicevamo prima, è quello che lui realizza appunto nell'uomo vitruviano. La ringrazio però di questa osservazione, è molto importante, grazie. Siete obbligati a fare delle domande, l'importante sarebbe per me capire se avete ricavato qualche spunto, sia metodologico sia di carattere proprio puntuale in questa lunga, violenta carrellata. Mi rendo conto che è una carrellata violenta. Avrei potuto concentrarmi solamente su poche immagini e raccontare, però sarebbe venuto fuori forse una cosa che non si può fare e acquisire anche attraverso una lettura. Non dobbiamo dare veramente per scontato nulla. Quando c'è una tradizione che ci racconta delle cose, io ho sempre detto ai miei scolari e ai miei amici, revocate il dubbio, che non è un dubbio sistematico, no? È un dubbio metodico, cioè lo revoco in dubbio per eventualmente essere perfettamente d'accordo una volta sperite le strade, no? Bene. Allora, grazie dell'attenzione.